Sabato 11 febbraio 2006, Sexy News, un'iniziativa targata goccedipiacere.tk. Educazione, notizie, humor per una sessualità positiva in rete. Buon ascolto. Argentina. Una coppia è stata arrestata per aver fatto sesso di fronte all'ufficio del sindaco in pieno giorno. L'uomo e la donna si sono spogliati completamente nudi per fare sesso di fronte al municipio di Bariloche. Quando la polizia è arrivata per arrestarli, hanno chiesto di poter finire quello che stavano facendo. Una folla si è subito riunita applaudendo la coppia, ad eccezione del sindaco, che invece si è detto scioccato dallo spettacolo. La donna ha detto alla polizia che aveva sempre fantasticato sul fatto di avere sesso fuori dell'ufficio del sindaco, mentre i politici erano riuniti all'interno. Un portavoce della polizia ha detto: «Sono due cittadini rispettabili, ma ci hanno detto che avevano l'urgenza di fare sesso in pubblico e che questa urgenza era molto forte e loro non potevano controllarla». Nuova Zelanda. Neil Benson, un dottore e direttore del Coopers Beach Medical Center, ha deciso di trasformare il suo centro in un bordello di alta classe. È attualmente in cerca di belle ed esperte ragazze professioniste da impiegare dentro il bordello per effettuare servizi sia per la gente del posto che per i turisti in visita. I pazienti del centro chiaramente sono rimasti scioccati da questa decisione, che sembra che il dottore abbia preso per manifestare contro la chiusura l'anno scorso del centro per via di problemi con la mancanza di fondi che la comunità del posto doveva elargire perché il centro potesse continuare a funzionare. Il dottore comunque ha affermato in un'intervista che è convinto che esistano delle similitudini tra la più antica arte del mondo, o professione come la dirsi voglia, e la medicina. Infatti, entrambe riguardano un servizio privato ed entrambe rispettano la privacy del cliente. Ogni cosa che verrà fatta in questo bordello sarà di alta qualità. Gli standard saranno gli stessi che lui ha sempre utilizzato durante la sua pratica medica. Gran Bretagna. In base a un sondaggio commissionato dalla catena di negozi per adulti Ann Summers e avente come oggetto ben 2000 persone intervistate, è emerso come la cifra di 350 milioni di sterline venga pagata ogni anno per rimediare ai danni creati dall'intenso sesso praticato da diverse coppie. Infatti, un terzo delle coppie riesce a rompere qualche cosa mentre fa sesso e almeno il 10% richiede il rimborso dei danni alle proprie assicurazioni. Gli oggetti più danneggiati includono lampade, vasi e letti e addirittura le tende delle finestre che durante evidentemente l'atto vengono tirate giù violentemente dai propri supporti. Almeno il 41% delle persone intervistate ha dichiarato di avere anche ricevuto dei danni fisici come colpi della strega, colpi alla testa e addirittura ossa rotte che hanno avuto bisogno di ingessature. Belgio. Le autorità hanno riferito avere seguito un'operazione di salvataggio in grande stile in mare per recuperare una coppia che apparentemente sembrava fosse in difficoltà mentre stava nuotando. In realtà l'allarme scatenato da un uomo che aveva avvistato la coppia agitarsi in acqua tramite il suo binocolo si è rivelato un falso. Infatti, quando sia l'elicottero da salvataggio che l'imbarcazione della Guardia Costiera sono arrivati sul posto, hanno potuto constatare come i due giovani nuotatori, un ragazzo e una ragazza, entrambi di 23 anni, non erano in effetti in difficoltà, ma a quanto pare erano stati interrotti nel bel mezzo di una nuotata d'amore. Infatti la ragazza indossava solamente il boxer del ragazzo, mentre lui era completamente nudo, e a quanto pare erano stati appena sorpresi mentre stavano facendo l'amore. Germania. Una 19enne, Daniel Proel, molto carina, svolge il suo lavoro come insegnante presso un asilo nido di Dresda, di proprietà della Chiesa. Attualmente rischia licenziamento dopo che la direzione ha scoperto che ha un doppio lavoro di notte, come spogliarellista presso un locale nightclub. La ragazza si difende dicendo che ha bisogno di questo secondo lavoro per guadagnare i soldi, per finire di studiare e quindi per aprire anche il suo asilo nido. Il padrone del nightclub è molto contento di Daniel, visto che la ragazza è molto apprezzata dai clienti del suo night. Di per sé Daniel in un'intervista ha maliziosamente ammesso che questo suo secondo lavoro le piace molto, in quanto la eccita pensare che molti uomini vengano ogni sera soltanto per vedere il suo spettacolo. Germania. Una casalinga tedesca frustrata ha dichiarato che ha iniziato a lavorare in un bordello visto che suo marito aveva perso ogni interesse nel sesso. Adelaide Kran, di 58 anni, residente a Berlino, ha dichiarato così: «Mi piace il sesso, mi piace molto, ma mio marito Gunther non ha più interesse nel far l'amore con me e lo fa soltanto una volta l'anno». Per combattere quindi la tensione e la frustrazione sessuale, ha quindi deciso, dopo aver letto un annuncio sul giornale, di lavorare in un bordello di donne mature. Chiaramente il marito non è stato particolarmente contento di questa decisione, però ha dovuto accettarla, visto che poi effettivamente la situazione in casa è migliorata. La donna dichiara anche che non lo fa a tempo pieno, ma lo fa soltanto con le persone di suo gradimento. Con un lavoro come questo, lei è convinta che deve mantenere un certo standard di qualità. Gran Bretagna. Una legge preesistente inglese permette alle prostitute che lavorano da sole di poter esercitare la propria professione nel proprio appartamento o in luoghi privati chiusi. Una proposta attualmente in fase di esame al Parlamento prevede che questa legge venga modificata, permettendo di passare da una sola persona in un appartamento fino a ben quattro persone, ovvero due prostitute, una persona addetta alla segreteria, al centralino e all'accoglienza dei clienti e a una cameriera. Questa è la dimostrazione di come non sia vero il detto niente sesso, siamo inglesi. Germania. Siamo a Monaco. È l'Oktoberfest, la più famosa festa della birra della città, e tre turisti italiani passeggiando avvistano una scena inconsueta. Un'infermiera che si sta agitando e sta inserendo nella sua vagina un sex toy, ovvero un vibratore. Due altre persone, un ragazzo di 25 anni e un uomo di 30 anni, la stanno filmando. I turisti avvertono immediatamente la polizia, che decide di arrestare le tre persone e scopre che stavano girando un film porno senza avere la necessaria autorizzazione, in particolare utilizzando come palcoscenico la ruota panoramica più famosa della città. Per una volta noi italiani effettivamente siamo stati più ligi al dovere che al piacere.